non fanno altro che urlare. E quindi mi raccomando, attenzione, ignorate questi stupidi uccelli, seguitemi, compatti, e vedete che arriveremo a destinazione sani e salvi. Se avete domande, vi prego, fate. Io amo rispondere per le mie abilità. Non so le grandi parole che sapete voi, però io conosco le storie del posto, quindi. Sì, Mero ti fa proprio un cenno tipo militare, come d'assenso, tipo. Miff si chiede in cosa si sia cacciata. Tipo, perché? Oh. Vai, Dennis. Ok. Ok. Quindi Di sì. cosa si mangia? Oh mio Mulacca. Dio. Ok, scusami Sara, dovevo fare questa domanda. Non andiamo di nuovo sulla questione cibo, che No, no, sennò no, no. usciamo fuori di testa un'altra volta. Volevo farlo per il meme. Miff si avvicina ad Arco e si mette dalla parte dell'orecchio buono e ti fa: ma quindi da quanto tempo è che fai questo di mestiere? Appunto, infatti. Non lo so, pianisci. No, dai, almeno la terza. Questa è la terza spedizione che faccio. Hai avuto vittime nelle altre due? Beh, dell'equipaggio assolutamente no. Oh mio Dio, non è equipaggio. Delle persone che proteggevo? Assolutamente no. Non posso dire lo stesso però dei mostri che ci hanno attaccato. Wow. Wow. A proposito, voi avete da mangiare? Volete assaggiare un po' di questa carne secca? E tiro fuori un paio di bustine di carne secca fatta in casa di roba strana che, cioè, non saprei spiegare. Che colore ha? Animali che buono, cioè nel senso sembra buono. Che odore ha? Più che Se colore pianisci me ha? lo barbecue. Barbecue coreano. No, non è vero. No, però vedi che, cioè, è carne secca che ha anche odori di tipo peperone, cipolla. No, Dio morto! Scusami, è il lato sla. È il lato sla. Vabbè, cipolla, carote, drape, non so, robe simili. Cioè, nel senso. Sedano forse, who knows? Sì, cioè, quelle cose che c'erano lì ai tempi, Dio porco. Io assaggio, io favorisco. Non sono una persona che dice di no al cibo, quindi. Devo dire, ho mangiato di peggio, però ha il suo perché. Proprio te la sorride, non ha. Cioè, magari puoi vedere un attimo che lo senti. Non è che hai l'occhio twitching, però cerca un po' di nasconderlo. Però lo deglutisce, se lo mangi lo deglutisce, quindi non lo sputa. Mi sto vedendo la reazione di Marope e fa... No, grazie. Saggia decisione. E ne mangia tipo due stecchi di fila. Noi non abbiamo tutto quel cibo buono che avete lì. Però questo fa il suo lavoro per le ossa e la carne e il sangue. Ah, beh, effettivamente ora che ci penso avrei potuto portare delle arance da Trice. Lui non Solo ha idea per il di cosa tu meme. stia parlando. E annuisce per non sembrare stupido. Piccolo insight da dare ad Ananas. Scusate, dopo continuiamo nella scorsa sessione. Naya ha portato delle arance a VIP. Le sono piaciute talmente tanto che per fortuna suo padre è molto handy, nel senso che ha un suo orto, cucina molto e cose di questo genere, quindi hanno iniziato a crescerle. Oh, che carino! Sì, Scandinavia, le arance, Scandinavia, le arance. 1500. Onesto. E quindi si niente. Questo qua. Hai lodato il sole. Ok, no. È lì dove Chissà che siamo cosa diretti? potrebbe No. essere. Mi sa che sta crashando.